i santi. Tra tutti i popoli vi sono persone che spiccano per una loro particolarità, quali ad esempio scrittori, eroi o ricchi. Gli scrittori hanno rare caratteristiche di esprimere con parole opportune tutto ciò che ci circonda. Gli eroi sono coloro che hanno compiuto gesta rare, mentre i ricchi sono coloro che hanno posseduto dei beni al di sopra di tutti. Non è diverso anche nel campo religioso. Tutte le persone che seguono una religione sono chiamati fedeli, ma tra questi ve ne sono alcuni che per una particolare condotta si distinguono e sono superiori ad altri. Nella religione cattolica romana sono chiamati santi. E poiché il termine santo non è stato inventato dal cattolicesimo romano, dato che di tanto in tanto qualche papa dichiara sante delle persone, viene da chiedersi chi sono questi santi, perché sono santi e che posto occupano nell'ambito religioso. Dato che il termine santo è un termine religioso, notiamo che nella parola di Dio si trova centinaia di volte sia in relazione a Jahwe, la divinità del popolo di Israele, sia riferito a degli uomini. Inoltre esso è pure attribuito a cose o luoghi. Quando nel pruno ardente Mosè vide per la prima volta Jahwe, mentre incuriosito dal fenomeno si stava avvicinando per comprendere cosa stava succedendo, la sua divinità gli diede in ordine: non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Esodo 3.5. Dunque Mosè con i suoi sandali poteva andare ovunque, ma non poteva calcare il suolo che gli stava davanti perché era santo, un termine con il quale Dio indicava a Mosè che la terra che stava per calpestare era diverso dagli altri luoghi, cioè era appartato per lui. Inoltre, sempre secondo l'ordine di Jahwe, gli ebrei costruirono una tenda nella quale vi era il luogo santo e il luogo santissimo, definizioni per far intendere che i luoghi erano particolarmente appartati e legittimati da Dio. Tutto ciò, quindi, che apparteneva a Dio era ritenuto santo, perché Dio stesso è santo, anzi, tre volte santo. In effetti, dando le sue disposizioni, l'Eterno ordinò a Mosè: parla a tutta l'assemblea dei figli di Israele e dillo loro: siate santi, perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. Levitico 19:2. La santità, o l'essere santo, non è un ordine dato tanto per dare un comando, come il padre che fuma e ordina al figlio di non fumare, ma l'uomo deve essere santo perché Dio stesso è santo. In definitiva, essendo l'uomo fisicamente creato a immagine di Dio, questa immagine deve essere mantenuta anche moralmente con una condotta ineccepibile. Nessuna creatura è santa agli occhi di Dio, perché non c'è e nessun giusto neppure uno, ma può essere ritenuta santa se il suo cammino è secondo il volere dell'Eterno e se è stato appartato per un compito particolare. Proprio per questo, l'ordine di Dio, rivolto al popolo nei confronti dei sacerdoti, e cioè di coloro che servivano l'Eterno, era perentorio. Tu considererai il sacerdote santo, perché egli offre il pane del tuo Dio. Egli per te sarà santo, perché io, l'Eterno che vi santifico, sono santo. Levitico 21:8. Da notare che l'Eterno non dice che il sacerdote è santo, ma di considerarlo santo, cioè appartato per servire Dio, perché in effetti con il tempo molti sacerdoti acquisirono un cammino peggiore di quello di tanti delinquenti e increduli. Il senso del discorso dell'Eterno Dio era quindi di ritenere l'ufficio del sacerdote una cosa stabilita da Dio e appartenente a Dio, cioè santo. Se poi il sacerdote è ritenuto santo, ciò è dovuto al fatto che era coerente con la volontà di Dio. Ma la sua santità non era una proprietà. Solo l'Eterno Dio è santo, avendo una natura divina. Per questo la Scrittura spesso usa il termine santo nei confronti dell'Eterno, non solo come aggettivo, ma anche come sostantivo. In quel giorno avverrà che il residuo di Israele e gli scampati della casa di Giacobbe non si appoggeranno più su colui che li colpiva, ma si appoggeranno in verità sull'Eterno, il Santo di Israele. Isaia 10.20, 12.6, 17.7, 29.19, 30.12. Questo aspetto dovrebbe far comprendere una delle verità più delicate e più importanti della Scrittura, e cioè che Cristo è Yahweh, Yahweh, la divinità non solo dei cristiani, ma anche quella citata nell'Antico Testamento. Se non fosse così, poiché solo Yahweh è santo, solo Dio è santo, come mai Gesù è stato dichiarato il santo? Sia dagli increduli, dai religiosi, dagli angeli, dai demoni e perfino dai discepoli, i quali, essendo ebrei, sapevano che solo la loro divinità, cioè Yahweh, poteva essere il santo. Marco 1.24, Luca 1.35, Atti 3.14. Infatti, l'Apostolo Pietro, dopo aver guarito uno zoppo con un coraggio unico, se caliamo la scena nel contesto culturale ebraico, disse a tutto il popolo rimasto attonito davanti al suo gesto: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino. Atti 3, 13-14. Parlando della natura di una persona, nessuno all'infuori di Cristo può essere definito santo e giusto. Pochissimi hanno compreso che il cattolicesimo romano è una copia ingiusta e imperfetta del religiosismo ebraico, perciò nulla di nuovo se in seno al romanesimo vi sono i santi. Con una differenza però, che i santi dichiarati dal cattolicesimo romano sono persone che hanno avuto una vita talmente virtuosa da avere tanti meriti al punto da poter dispensarne dei favori ad altri mortali. Questa era almeno l'opinione generale comune, ma se esaminiamo a fondo chi sono i santi dichiarati dal cattolicesimo, tra loro ne troviamo anche alcuni che non erano stati grandi esempi di virtù, come prostitute o ladri. Perciò la religione cattolica romana ha ripiegato con il dichiarare santo colui che, meno oltre ad avere avuto una vita di virtù che superava i suoi peccati, meno brebbal, meno compiuto un miracolo. Per questa ragione la beatificazione di Papa Giovanni XXIII, che la folla invasa da uno spirito fanatico voleva fosse fatto santo subito dopo il suo decesso, ha dovuto attendere il suo regolare processo. Ancora una volta il cattolicesimo prende in prestito una parola biblica, conferendole però un significato diverso dal senso originale. Mentre in tutta la scrittura il termine santo è riferito a ciò che appartiene o è consacrato a Dio, la religione romana ritiene sante le persone particolarmente virtuose, e questo in armonia con il pensiero espresso in tutte le religioni, e cioè che vale ciò che si fa e non ciò che si è. Chi si accosta alla lettura della parola di Dio senza preconcetti e con cuore onesto riconosce subito che i santi sono coloro che appartengono a Gesù Cristo mediante un atto di fede. Nelle sue lettere l'Apostolo Paolo si è sempre rivolto ai credenti, definendoli santi. Anzi, dalle lettere degli Apostoli possiamo comprendere che i primi credenti in Cristo erano chiamati comunemente santi. Infatti, l'ordine di Paolo era di provvedere ai santi. Romani mezzogiorno e 13, quando questi erano poveri, Romani 15 e 26, e per questo si facevano le collette per loro. 1 Corinzi 16, 1. Perciò i santi non potevano certo essere delle persone morte. Le comunità cristiane, sempre secondo gli apostoli, erano composte di santi, Romani 15 e 25, e per questo Paolo implorava perché le sue lettere fossero lette da tutti i santi, 1 Tessalonicesi 5 e 27, dava ordine che le persone anziane che avessero lavato i piedi ai santi fossero aiutate economicamente, 1 Timoteo 5:10, e terminava le sue lettere spesso con un saluto da parte dei santi, Filippesi 4:22, chiedendo anche di salutare i santi, Filippesi 4:21. In definitiva, secondo gli apostoli, le chiese dei primi cristiani erano composte da peccatori, ma restavano comunque chiese dei santi, 1 Corinzi 14:23. Potevano i santi del cristianesimo iniziale essere delle persone morte e soprattutto tanto virtuose da donare dei benefici spirituali al prossimo? Perché una persona possa essere dichiarata santa secondo il cattolicesimo romano deve avere compiuto almeno un miracolo, ma proprio su questo punto sorgono i più grandi interrogativi. Innanzitutto, Giovanni Battista, che viene definito San Giovanni dal cattolicesimo, non compì nessun'opera straordinaria o miracolo, al punto che anche i suoi contemporanei erano perplessi in merito al suo mandato di profeta, Giovanni 20 e 41. Inoltre, ciò che il cattolicesimo romano non dice, e non vuole fare sapere, è che anche il diavolo è in grado di fare dei miracoli. Deuteronomio 13, 1-4. Perciò un miracolo o qualsiasi opera potente non confermano necessariamente un intervento divino. La parola di Dio ha avvertito che prima del ritorno di Cristo verrà un uomo particolarmente malvagio con capacità particolari. Ecco nella descrizione. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. 2 Tessalonicesi 2.9. Non è possibile ignorare un simile avvertimento, anche perché quest'uomo, per non essere scoperto, dovrà agire nell'ambito del cristianesimo e con metodi cristiani abilmente camuffati. E dove, se non nel cattolicesimo romano e nel protestantesimo formalista, si trovano i luoghi più adatti per ingannare i falsi religiosi? Perciò, in merito ai santi, dove sta scritto che i santi vengano canonizzati dal Papa? Dove sta scritto che i santi in cielo possono udire chi prega in terra? Dove sta scritto che i santi siano avvocati e mediatori tra Dio e gli uomini? Dove sta scritto che i santi devono essere adorati di duia e che delle feste devono essere celebrate in loro onore? Dove sta scritto che, per mantenerne vivo il ricordo, si possono fare delle statue di santi e di madonne? Dove sta scritto che sia doveroso portare statue di santi in processione o accendere candele in loro onore? Dove sta scritto che qualche santo abbia chiesto di essere venerato, adorato e pregato? Sono domande serie che chi prende sul serio la fede cristiana dovrebbe porsi, e per le quali la conclusione più ovvia è che l'adorazione di duria e iperduria data ai santi e alla Madonna, secondo la parola di Dio, non è altro che idolatria. Matteo 4:10. Perciò i santi, secondo le sacre scritture, non sono altro che tutti i peccatori viventi che hanno ricevuto il perdono totale di tutti i loro peccati mediante un atto di fede nell'opera di Cristo, i quali, come risultato di tale esperienza, hanno un profondo desiderio di piacere a Dio nell'osservare tutti i comandamenti di Cristo. Per questo, per quanto peccatore sia, io sono un santo, cioè appartato per Dio, come lo è chiunque è reso giusto per il sangue di Cristo. Febbraio 2007. Ellero.